YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a Radio Tube, un nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo e anche un pochino di perdibile della settimana tra TV, web TV, social TV. Questa settimana parleremo tanto di calcio, parleremo di televisione, parleremo di esteri e sicuramente non parleremo di politica, ma la prossima settimana ci sfogheremo. Non lo diciamo, non si può dire nessun nome. Allora, è ancora sabato. Comunque, è la puntata del sabato. Domani, ancora meno. I compiti non li ho ancora fatti. Allora, Marta Cagnola ha il seguente account Twitter, @MartaCagnola. Invece il sottoscritto ha il seguente account Twitter, @DBellasio. Ovviamente potete, anzi, dovete scriverci utilizzando l'hashtag cancelletto Radio Tube. Ma mi è diventato un signorino. Buonasera, Daniele Bellasio. Sì, assolutamente. Ho fatto dei corsi di dizione, seguo i consigli di Valeria in regia, sto imparando delle cose. Che fa di no dall'altra parte del vetro. Parliamo di calcio. Sì, io ti finalmente, posso confessare che non vedo l'ora. Non vedi l'ora di che cosa? Dei mondiali. Dei mondiali che comunque portano via questo campionato, che non ha espresso niente di che. Era tutto abbastanza tranquillo e scontato. E arrivano finalmente i mondiali, cioè la stagione dell'anno, che arriva ogni 3-4 anni, in cui di calcio si può parlare senza essere accusati di maschilismo. Tra le tante cose che a me piacciono tanto dei mondiali è che ci sono gli inni. Non mi riferisco solo agli inni nazionali, che comunque hanno un loro fascino, ma proprio gli inni della manifestazione. La cosa drammatica è che anche i più bravi cantanti, i più bravi autori di canzoni, quando si cimentano con i mondiali, posso dirlo? Non ti piacciono tanto? No, ma perché? Poi magari succede come ai famosi mondiali del 2006. Che la colonna sonora la scelgono i tifosi. Quest'anno Potresti anche cantarla, come fa? Magari porta male, senti, non vorrei mai. Diciamola senza cantare così. Non vorrei che... Quest'anno, siccome la canzone ufficiale deve avere sempre delle parole che si ripetono, deve avere un testo semplice, una cosa cantabile, quest'anno... Le notti magiche. No? Bella come quella non ce ne sono più stati, ti assumi la responsabilità di quello che dici. Quella mondiale, diciamo, è stata scritta da Pitbull con Jennifer Lopez, si chiama We Are One. Hola, hola. E noi abbiamo al telefono Jennifer Lopez. No, ce l'abbiamo in carne ed ossa. No, non è vero, abbiamo solo il video, eccolo qua. Put your flags up in the sky, se ti piace, dobbiamo abituarci, cioè, non lo so messo se insieme mi... tu reggae, sì, rap, sì, hanno messo insieme un po' di Gilberto Gil, Brasile, un po' di cose così. Questo è l'inno ufficiale. Poi in Italia avremo anche due canzoni. Una è quella che introdurrà le trasmissioni e speriamo anche le vittorie. Ma tipo ogni tanto anche l'inno d'Italia, no? L'inno nazionale. Quello, vorrei sentirlo il più possibile. Secondo te andiamo avanti? Tu che sei una grande esperta di calcio. Io non dico niente. Io sono solo un filo scaramantica. Io non dico niente. Ma ti faccio sentire un pezzettino della canzone che è stata scelta dalla RAI, che è stata fatta niente meno che da Mina. Scambio corto, limite dell'area, contropiede, catenaccio, lancio per il cross, doppio passo, rimane poeti, finta e tiro, rosa terra per un bel gol, stop al volo. si intitola La palla è rotonda ed è il testo, sono tutte le frasi fatte del calcio. Vabbè, è carina, molto carina, infatti questa è un'idea divertentissima. YouTube. Allora, abbiamo ascoltato La palla è rotonda di Mina, che sarà l'inno della Rai. Abbiamo ascoltato Pitbull, che sarà l'inno dei mondiali. E Sky, abbiamo detto cosa ha utilizzato Sky? Cosa c'è? In realtà è proprio un'anteprima, perché il video verrà reso noto il 28. Tra l'altro, ma tu lui... ce l'hai? Io ho un teaser che ha diffuso in rete questo artista, questo rapper, a me molto caro perché è un mio compaesano, un mio concittadino. Lo dico se... Ebbene sì. No. Ebbene sì. Questo è il Maracanà di Emischilla. E queste sono le prime note di Maracanà, cioè Daniele che già balla, le balli tutte. No? Certo, noi in Brianza abbiamo questi ritmi. L'accento brianzolo. Sì, la bassa musica. Brianza offre questo tipo di ritmi con questo così. Dalla questo... Brianza al Maracanà. Beh, divertente comunque. È carino, siamo... mi piace il fatto che per i mondiali già ci sia tutto questo friccicore. C'è già brio. Sì, sai, secondo me, chi potrebbe già essere in particolare friccicore? E io ne sono sicura. È già anche un po' in viaggio, diciamo. Sì, perché allora io immagino il mio brivido per quando vado a un festival, appunto Sanremo, avevi Venezia, promesso, che ci sono non l'ho detto. Avevi detto che non ne parlai più. Non ho parlato di quell'altro che stavi per parlare. Non l'ho detto. Allora, quando vado a Sanremo, a Venezia, non puoi censurarmi anche i pensieri. Quando vado a Sanremo, a Venezia, a Roma, a Taormina e non cito quello di cui Daniele non vuole che parli, mi sento sempre un po' emozionata prima di partire. Ma quando parti per un evento che c'è una volta ogni 4 anni, deve essere emozionante. Parecchio. Io lo chiederei subito a colui il quale sarà il nostro inviato, l'inviato di Radio 24 ai mondiali. Ah, pensavo di Radio Tube. Anche di Radio Tube, ma certo che lo chiameremo per forza. Buonasera Dario Ricci. Buonasera ragazzi, buonasera. Dario, c'è un po' di emozione, dimmi com'è. No, davvero grandissima emozione. Tra l'altro al momento sono in treno a Bologna, quindi l'ho presa un po' larga, ma... arriveremo anche a Rio de Janeiro. Beh, no, non in treno, perché sennò ce ne vuole parecchio. A parte far la valigia, che non deve essere facile, perché per il Brasile non deve essere facilissimo fare una valigia, ma hanno parlato di climi infernali. No, ma poi deve studiare tutte le riserve, esatto, del Perù. Esatto, bisogna studiare qualsiasi cosa. Ah, assolutamente. Basti pensare che ieri sera sono andato a un corso di meditazione, quindi la preparazione comincia da lontano, ma la passa attraverso la valigia, che sicuramente è complicata, perché ci muoveremo da Rio fino all'equatore, e quindi bisogna essere pronti a tutto, anche alle piogge amazzoniche, visto che l'esordio sarà il 14 giugno a Manaus, alle porte dell'Amazzonia, contro l'Inghilterra, fino anche alle mappe stradali, perché bisognerà muoversi parecchio anche in auto, perché comunque l'Italia è a 100 km da Rio de Janeiro, in questa Mangaratiba, che sarà pure il paradiso per la nazionale azzurra, perché per noi giornalisti, diciamo, diventa già un luogo ai confini dell'inferno, perché insomma devi arrivarci, devi stare dietro agli azzurri, sarà parecchio complicato. La prima cosa a cui penso sono le zanzare, cioè già ho l'ansia. Ma sai che si sono allenati in sauna per replicare? Mamma mia, chissà che fatica. E poi c'è quella roba del fuso orario. A me angoscia molto l'aspetto del fuso orario. L'hai chiesto partita, anche a Carlo Genta, avevi incontro paura. Incontro Genta per strada, Pardo, e chiedo a tutti, ma come si fa che la partita l'una di notte? Non lo so, è complicato. È abitudinario, devo andare presto alla sera. No, la partita deve essere alle 20:45, esatto, preciso. Ma forse cambierà anche il modo di informarci a proposito dei mondiali, Dario, proprio per questo aspetto. Sono anche curiosa di chiederti una cosa, Dario. Cosa farai? Tu twitterai dalle tue gite e trasferte brasiliane? Considera che le previsioni, è un grande punto interrogativo, perché le previsioni dell'Ente Nazionale dell'Energia Elettrica brasiliano dicono che in metà degli stadi non dovrebbe funzionare addirittura internet, e un quarto degli stadi sono a rischio blackout. Quindi diciamo, anche no, sono proprio a rischio blackout, perché i lavori infrastrutturali sono talmente in ritardo che, diciamo, che ormai quello che c'è non si riesce a a far di meglio. Anzi, a questo proposito vorrei farvi ascoltare un brevissimo frammento di un'intervista, di una bella intervista che Donatella Scarnati, collega della RAI, ha fatto durante Dribbling al CT, al mister Prandelli. Come si comporterà e come farà comportare i giocatori con i social network, con Twitter? Ecco cosa ha risposto Prandelli. Succederà che lunedì sera, martedì mattina, il primo ordine del giorno, la prima discussione con i giocatori sarà proprio inerente a questo problema. Per me non è un problema, io mi auguro che i giocatori decidano una linea comune. Mi piace una squadra che si prenda la responsabilità, mi piace una squadra che sia coinvolta anche nelle decisioni. Poi qualsiasi risposta daremo, io sono convinto che saremo bravi nel cercare di mantenere le promesse. Vabbè, io sono una prandelliana in questo, perché l'ho trovato veramente sempre elegante, sempre misurato. Cosa ne pensate voi? No, questo è il primo mondiale con i social network, obiettivamente il primo mondiale dove c'è questo elemento in più di comunicazione. Bisogna avere buon senso, perché chiaramente è bellissimo seguire i calciatori per i tifosi anche attraverso i social network. Dall'altra parte i calciatori, gli allenatori, tutti, gli arbitri persino, chiunque, deve sapere che quello è un luogo pubblico. Bisogna comportarsi come nei luoghi pubblici. Non sono convinto che regole troppo stringenti siano il modo migliore per affrontare una novità, però mi piace quest'idea, dai, diamoci una regolata tutti assieme, piuttosto che, però non chiudiamo, ecco, chiudere no, Dario. Dario, cosa ne pensi? Intanto ricordo l'account di Dario Ricci, che è @dricci73. Che non è facile. Cioè, fa parte di quelli, sì, del D col cognome, sì, che sono una casta molto molto intelligente, chissà come mai. Però lui ha fatto anche coming out con la data di nascita, Dricci73. Beh, ah, giusto. Quindi, insomma, ecco, ancora me lo posso permettere, fra qualche anno toglierò anche il 73, sì, in modo per... Dario, che ne pensi? Guarda, credo che anch'io sono un prandelliano in questo. Tutte le federazioni ne parlano, intanto anche a bordo campo, dove la marcia d'avvicinamento verso il mondiale è stata anche scandita da questo argomento, così come stiamo facendo con RadioTube. Tutte le federazioni hanno affrontato per le corna questo argomento, visto che le scivolate in fuorigioco sui social network da parte dei campioni sono all'ordine del giorno. Prandelli ha cercato di responsabilizzare il gruppo. Bisognerà vedere anche come reagiranno i vari parenti dei calciatori. Perché ho sentito che sono tutti convocati, come Radio 24, tutti convocati. Sono convocati anche i parenti? Sì, perché per esempio, ti faccio un esempio più eclatante, Cassano non mette mano all'iPhone, a Twitter, ma Carolina sì, però. Ma Carolina sì. E poi come te la cavi con i vari profili falsi? Profili falsi. Concedimi di dire, Daniele, una cosa su Conchita Wurst. Però no, è una notizia. No, è una notizia. Anche questa settimana tutti i siti e anche le agenzie di stampa, quelle vere, italiane, hanno ripreso la notizia che Conchita Wurst avrebbe aperto che avrebbe aperto i concerti di Lady Gaga. Ora, può essere che lo faccia, ma sicuramente non ha firmato, perché il messaggio Instagram che annunciava questa firma era di un fake. Sì. Ed è diventata una notizia vera perché qualcuno ha creduto al fake, che si chiama Conchita Official, mi pare, ma che non è il suo. Può sempre spuntare e chissà quanto spunterà ai mondiali il fake che poi prendiamo come notizia, Dario. Mi viene da dire che barba, però questa storia di Eurovision, ti vuoi iscrivere al partito No Eurovision? ma era una notizia, sì. Ragazzi, su, assolutamente bisogna fare attenzione ai falsi. Per esempio, uno che combatte quotidianamente con i falsi su Facebook è Mario Balotelli, che ha più volte specificato che lui attraverso Facebook non parla, parla esclusivamente, come sappiamo, attraverso Twitter. Però qualche volta ancora su Facebook gli vengono attribuite delle dichiarazioni che non sono sicuramente sue. Beh, oddio, anche quelle su Twitter a volte sono un po' fortine. A proposito di Mario Balotelli, è successo l'ennesimo episodio spiacevole. Io ve ne farei ascoltare qualche secondo, l'audio si capisce, sì, si capisce, no, vabbè, però ascoltiamo. allenamenti, tifosi, se possiamo chiamarli così, che assistono agli allenamenti, e grido razzista. Ma Balotelli soprattutto ha su di sé, veramente, per essere un ragazzo giovane, insomma, delle responsabilità. Questo ragazzo è da 3 anni costretto comunque a giocare in una situazione per cui è ipercontrollato. Balotelli sempre sotto giudizio per certi versi, sia da chi tifoso non è, come quello che ha gridato quella roba lì, e tutto il resto. Ma è inevitabilmente il ruolo, è il personaggio, il fatto che rappresenta un'Italia nuova e diversa. Piuttosto interessante capire quello che riusciremo a vedere di intemperanze, proteste, provocazioni anche becere, perché come sapete ormai da qualche edizione di Europei e Mondiali la diretta TV ufficiale è indifferita di qualche secondo, proprio per prevenire la visione, la mondovisione di episodi di questo tipo, no? Qualcosa della realtà in questa confezione perfetta prima, in qualche modo entrerà. Anche perché lì arriverà appunto la rete, YouTube, i video virali, le piccole cose che faranno una sorta di cronaca parallela di ciò che invece non passerà sulla TV ufficiale. Salvo che internet e la rete funzioni, no? Ah, certo, sicuramente. Dario, allora noi che diamo di solito l'appuntamento alla RadioTube della domenica delle 15, diamo l'appuntamento anche con A Bordo Campo. Andiamo in onda domenica alle 16:30, tra l'altro durante i mondiali sarà un A Bordo Campo diario mondiale, quindi appuntamento fisso domenica alle 16:30 e poi spazio a tutti i convocati weekend come d'abitudine. Grazie mille Dario, noi intanto balliamo un po' con Pitbull, balliamo ancora, perché vuoi, tanto adesso c'è la pausa. Sì, dai, facciamo questa pausa insieme a Pitbull. Noi ci ritroviamo tra poco. Grazie a Dario Ricci per essere stato con noi. Mi raccomando, la valigia, attenzione al caldo, alle zanzare. Sono già preoccupata per questo ragazzo che mi parte. Chissà se mi parte come abbastanza attrezzata. Comunque mi piace vederti parlare di calcio come se stessi parlando di una classifica cinematografica o canora. Ma per me è la stessa cosa. È comunque spettacolo. RadioTube. Rieccoci insieme a RadioTube, che come sapete è l'appuntamento di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo della settimana tra TV, web TV, social TV. Finora abbiamo parlato di calcio, tanto di mondiali, abbiamo ballato sulle note dell'inno dei mondiali per tutta la pausa. Adesso però ci concediamo, posso usare questo verbo Daniele, ci concediamo, sì, di parlare di una cosa che... è bello di fare questo lavoro, sì, effettivamente ogni tanto sì. mi metti in contatto diretto con cose che mi piacciono nella vita privata. E non avevamo ancora parlato. Colpevolmente, così, perché volevamo arrivare un po' avanti per capire, perché per esempio, voglio dire, adesso sto per dire un'eresia, no? Però io ieri sera l'ho proprio provato, siccome mi è capitato di vedere Assieme, due miti delle serie televisive di questo periodo, cioè House of Cards e la serie di cui stiamo per parlare. Cioè, tu arrivi a un certo numero di puntate che poi lì è il momento clou, perché certo, può certo scivolare lentamente verso la normalità e quindi prendere un po' meno le corde della tua passione, oppure continuare. Sì, anzi, ora, magari House of accelerare. Cards, ti devo dire sinceramente che verso la quinta, sesta inizia. Sei un po'... Ma vedo che il tuo entusiasmo non è come prima. Invece la serie di cui stiamo per parlare no. No, mantiene un livello altissimo. Allora facciamo una cosa, io vorrei far ascoltare un brevissimo estratto ai nostri ascoltatori, agli ascoltatori di RadioTube, perché gli appassionati riconosceranno la scena in un attimo, e per gli altri invece, quelli che ancora non hanno scoperto questa serie, vabbè, lo spiegheremo tra qualche secondo. Ecco qua. Buonasera a tutti, applausi. Canzone vuoi sentire? Ancora noi. Ancora noi. A chi la dobbiamo dedicare? A Noemi, a splendida guaglione a fianco a me. E poi ce la voglio dedicare a papà che sta ingiustamente carcerato. E poi ce la voglio dedicare a chi lo grandissimo cornuto Salvatore Conte, che si è cagato sotto e se ne è scappato in Spagna. E E questa musica, che si intitola Ancora Noi, e il cantante è Alessio, in realtà di qualche anno fa, è una hit dei neomelodici napoletani che colpevolmente da Napoli in su non si conoscono. Invece tanti sono bravi, tanti fanno delle hit anche interessanti. Ma magari presto qualcuno li racconterà. Guarda, c'è appena stato un film bellissimo, magari qualcuno ancora in sala riesce a trovare Song Napoli dei Manetti Bros, che è bellissimo. Stiamo parlando ovviamente di Gomorra, la serie. Ascolti molto alti, vorrei dare qualche numero. L'ultimo dato è venduto in oltre 50 paesi. Le ultime puntate, con gli episodi 5 e 6, hanno registrato più 11%. Spettatori 675.659, stiamo parlando di Sky Atlantic HD e Sky Cinema 1 HD, quindi sono numeri molto forti. Su Twitter, la conversazione totale dall'inizio della serie a oggi ha prodotto 13.000 tweet, di cui più di 9.300 con hashtag appunto Gomorra la serie. La storia è quella di un boss, che è Pietro Savastano. Non spoilerare. No, starò molto attenta. Che ha un figlio che si chiama Jenny Savastano, che ha un amico con un rapporto custode molto forte. Ciro. L'immortale. Tre morti. Almeno tre morti. E non è frenuto, perché in terra ci stavano le ferite. I figli e bucchina, pure due bombe hanno tirato. Ma tu come stai, mo? Tu cazzo, non mi vivi. Tu. Se ci stavo tu, ero morto, tu. Abbiamo sbagliato, tia, abbiamo sbagliato. Io sapevo che con troppo fuoco si vendicava. Ciro, tu che sa Pietro non ce le ha ricere, hai capito? Bravo, sì. È bello, posso dire, anche molto bello. È l'immagine bello. Simbolo. È come straordinario. Nel ruolo di Ciro, l'immortale, il bravissimo Marco D'Amore. Buonasera Marco. Buonasera a voi e a tutte le persone in ascolto. Marco, te l'aspettavi un successo del genere per Gomorra la serie? Perché era molto atteso, però sai, poi alla prova dei fatti è un po' come al cinema, il botteghino è sempre una sorpresa. Guarda, per citare una delle scene della puntata di Barcellona, direi che è stato come una roulette russa. Sì. Nel senso che le aspettative, le speranze erano tante, però poi il gioco degli ascolti è imprevedibile. Sta andando bene anche quello, quindi siamo molto contenti. Abbiamo citato Twitter, anche tu twitti, hai postato anche delle cose divertenti e interessanti. Il tuo account è damore_marco, però basta cercare Marco D'Amore e si trova. E ovviamente come immagine del profilo adesso hai la locandina di Gomorra, per forza. Cioè, quella non è la locandina di Gomorra. No, quello è un piccolo estratto dalla locandina che è stato stampato sulla nuova ristampa di Gomorra di Roberto. E visto che è una cosa che mi riempie davvero di orgoglio, ho twittato anche insieme per dire, ecco così, anche idealmente sulla copertina del tuo libro siamo insieme. Allora, diciamolo subito, perché tu hai sviluppato questo rapporto che a me incuriosisce molto, con Roberto Saviano, che diciamo ha supervisionato il progetto di Gomorra la serie, quindi è stato direttamente coinvolto in questo progetto. Perché tu hai anche visto delle puntate con lui. Vorrei mostrare alla radio, ai nostri ascoltatori, visto che noi cerchiamo sempre di scovare dei video in rete, un video che ha postato proprio Roberto Saviano, che ha girato insieme a te. Se non mi sbaglio, l'ha girato a New York. Ecco qua Roberto Saviano e Marco D'Amore. Chiarendo a chi ci sta seguendo che fratelli non lo siamo. No. Cugini nemmeno. No. Né sei stato scelto perché, come vedi, insomma, abbiamo qualcosa in comune. Non per questo. No, sono contento di vedere con Marco Ciro la puntata stasera. Perché? Perché c'è Milano. Poi c'è Barcellona. C'è pure. Barcellona. Quindi c'è un racconto che va oltre tutto, oltre Napoli, oltre l'italico paese. Un saluto da parte nostra. C'è questo scherzo per cui qualcuno potrebbe pensare che siete parenti, perché c'è una lieve somiglianza, però c'è, Marco? Ma guarda, questo video, così come dire, sarcastico, è nato anche perché qualche detrattore ha accusato la serie di aver scelto un protagonista che assomigliasse a Saviano per farne l'apologia, che è una cosa sinceramente che a noi ha fatto molto ridere, quindi ci abbiamo scherzato su. Tutto qui. Dove hai raggiunto Roberto? Abbiamo girato questa conversazione a New York, la prima pillola di questo dialogo è andata in allegato alle puntate 5 e 6 della scorsa settimana, e a seguire, prima di ogni puntata, ci sarà un pezzettino di questo dialogo, che secondo me è molto bello perché indaga la serie dall'interno, quindi io svelerò alcuni piccoli retroscena legati al girato e Roberto entrerà nel vivo dei materiali scritti. Bella questa collaborazione. Sì, sai cosa? A me piace molto di questa serie il fatto che ci siano più registi. Io ovviamente, come sai, non sono come Marta un esperto di cinema, però questa cosa che ci siano più registi, tante persone, Roberto Saviano, che sembra molto un lavoro di squadra e di squadra di professionalità molto diverse, per cui oltre al racconto della serie in sé c'è anche il racconto di come la serie è avvenuta. Per esempio, può darsi che sia solo una mia sensazione, però le prime puntate con un regista bravissimo erano puntate molto notturne, molto sottoterra, molto nascoste, sempre buie, e quindi davano l'idea di... Poi a un certo punto cambia il regista e diventano invece all'aperto, Milano, poi si viaggia. Questo fare un lavoro di squadra con tante professionalità, tante culture, tante mentalità diverse, secondo me arricchisce la serie. Marco, secondo te? Guarda, innanzitutto penso che sia un esempio lampante di quanto nel nostro paese ci siano delle eccellenze che più collaborano, più si mettono insieme e meglio favoriscono la qualità dei progetti. Questa è una cosa che io ho sempre pensato e che è molto difficile avvenga nel nostro paese, perché non so, c'è una ritrosia quasi atavica per cui non si possa mai lavorare in equip. In questa serie è ancora più necessario questo triplice sguardo, perché il progetto racconta di tre punti di vista diversi: quello del boss Pietro Savastano, della moglie Imma e del figlio Gennaro. Ciascuno di questi sguardi è affidato a Stefano Sollima, a Claudio Cupellini, a Francesca Comencini. E poi, come avete già visto nelle prime puntate, continuerete a vedere fino alla fine, c'è questo personaggio trasversale, che è questo Ciro l'immortale, che prova ad attraversare tutti e tre questi sguardi mettendosi di traverso. Io sono molto curiosa di vedere le puntate dirette da Claudio Cupellini, perché per te è un ritrovare chi ti ha diretto in un film, il film che poi ti ha rivelato che era Una vita tranquilla con Tony Servillo. Io dico sempre che non riesco ad essere obiettivo parlando di Claudio, perché condivido con lui un rapporto di amicizia fedele, però ritengo che sia uno dei registi giovani di più grande talento che il nostro cinema abbia espresso negli ultimi anni. Non solo ho avuto la fortuna di debuttare con lui al cinema e di bissare con Gomorra, ma in questi giorni sto girando il suo terzo film, che sarà, ne sono convinto, un film che piacerà tantissimo. Io ho un piccolissimo ruolo, giusto davvero per il gusto di essere ancora insieme. C'è un cast meraviglioso di attori italiani strepitosi. Ne vedrete delle belle anche lì. Senti, posso farti una domanda rapidissima, perché non possiamo non citarle, sulle polemiche che ci sono state, no? All'inizio, probabilmente poi la qualità della serie, lo dico molto sinceramente, penso che in fondo poi la qualità della serie abbia fatto un po' dimenticare le polemiche, ma voi come le avete vissute? La polemica nasceva dal fatto che forse raccontare una parte d'Italia un po' troppo spesso nello stesso modo può dare la sensazione che si voglia calcare la mano su alcuni luoghi comuni. Voi come l'avete vissuta dall'interno questa polemica? Guarda, io ti dico, per predisposizione naturale sono veramente poco avvezzo alla polemica, molto al dialogo, allo scontro anche duro, deciso, quindi per me le polemiche lasciano il tempo che trovano. Non conosco nella mia formazione teatrale, cinematografica, alcuna opera che non ponga al centro del dibattito un conflitto, doloroso che sia, ma è necessario. E poi, se posso dirlo da appartenente al territorio e da attento osservatore di quello che succede a casa mia, ho avuto il sentore che molte di queste polemiche fossero strumentali e fossero, servissero molto più a quelli che le facevano piuttosto che, appunto, ad alimentare un sanissimo dibattito, perché non è detto che una serie debba mettere tutti d'accordo. È giusto che si discuta e va benissimo. Grazie Marco di essere stato Ciao. Con noi. Ciao. Beh, Marco D'Amore a me piace veramente tanto, è proprio bravo. Ciro l'immortale. Immortale. Radio Tube. Caro Daniele, di solito a quest'ora attacco con come passa il tempo, sì, quando ci diverte, però dai, siamo un po' seri questa settimana. Abbiamo deciso di aspettare prima di parlarne, perché con le cose virali bisogna capire dove vanno, dove anche partono. Anche perché, sì, sai che io mi chiedevo se su questo fenomeno, citiamolo subito, Bring Back Our Girls, questo hashtag che si è diffuso tantissimo in rete, soprattutto poi tra le celebrities, per fare un appello alla liberazione delle ragazze, delle studentesse rapite dagli integralisti di Boko Haram. Mi sono chiesta se fosse poi a un certo punto diventato un po' una moda, se non snaturasse un po' lo spirito. L'immagine di questo... simbolo è probabilmente Michelle Obama con il, ebbene, con sì, il foglio. Che si è fatta fotografare, insomma, instagrammare con questo foglio. Ci sono stati anche tanti video che si sono diffusi in rete, noi abbiamo sempre un occhio su questi video virali. C'è questo video del quale dobbiamo anche spiegarvi un po' di cose, che in particolare è stato molto condiviso su YouTube. Tanti video avevano della musica con i collage, delle foto delle ragazze, perché ovviamente le immagini che arrivano da quei luoghi non sono particolarmente numerose. Questa però è la voce dello zio di una delle ragazze rapite, insomma, sono molto toccanti e sono particolarmente coinvolgenti. Ma addirittura ci sono dei video, non so come dire, assolutamente insospettabili, che vengono condivisi in rete proprio sempre con questo spirito di Bring Back Our Girls. I never asked this of you, but please share this video. Share it as many times as you can. Share it on every Facebook, every social media part that you can to get the word out, to bring back our girls. Personally, personally, personally, personally, personally, personally. Cioè, addirittura questa è una ragazza che fa dei video di Zumba, che è questa ginnastica ballata, che ha dei video visti in decine di migliaia di visualizzazioni. Ha fatto un video con la musica di un cantante nigeriano, chiedendo, chi parla l'inglese l'ho accolto, non chiedo mai di condividere i miei video, ma questo condividetelo. Quindi alla fine la volontà di far diventare questo messaggio virale. Ma servirà? Insomma, non so se noi possiamo rispondere a questa domanda, ma sicuramente può aiutarci a capire qualcosa di più un'esperta di esteri, una collaboratrice del Foglio, Tatiana Buturlin. Buonasera Tatiana. Buonasera, ci provo. Tatiana, appunto dicevo, io ho avuto questa paura del sta diventando una moda, serve a qualcosa, può essere controproducente. Secondo te? Secondo me l'attivismo umanitario di per sé è selettivo, questo di base, per cui questo può, nel caso di Bring Back Our Girls, può risultare irritante il fatto che fino, in realtà, all'esplosione del caso, fine aprile, primi di maggio, solo qualche settimana prima erano stati uccisi, bruciati vivi più di 62 ragazzi, altri 150 cristiani impiccati, e nessun hashtag così ha accolto questo spirito di grande indignazione. Per cui capisco che per chi si occupa di queste cose, che per chi continuamente parla della violazione dei diritti umani, può essere anche irritante, superficiale, un po' un modo, da un certo punto di vista, di alleviarsi le coscienze, dire sì, io mi interesso di questa causa e questo è quanto. D'altra parte è pur vero che queste cose però mettono pressione sui governi, perché c'è certamente un'attenzione su quello che passa attraverso i social network, perché l'opinione pubblica poi viene comunque coinvolta, per cui poi i media internazionali rilanciano quello che vedono, che è seguito sui social networks, per cui poi se ne parla di più e questo mette pressione, per cui sicuramente per quello che riguarda il caso nigeriano, il presidente, dopo appunto un atteggiamento che è stato sicuramente molto pilatesco, incerto, lo si deve finire in tutti i modi possibili, con una moglie che addirittura ha iniziato ad attaccare i manifestanti, alla fine ha dovuto in qualche modo chiedere aiuto, essere messo di fronte alla propria impotenza e alle proprie responsabilità. Ci sono zone del mondo dalle quali le informazioni arrivano in modo molto genuino e quindi contemporaneamente anche per certi versi rozzo, anche poco lavorato, a volte è difficile anche capirne la veridicità, ma proprio quasi esclusivamente arrivano attraverso i social network. Tu per esempio sei un'esperta soprattutto del mondo insomma dell'Oriente vicino, dell'Iran. Com'è il rapporto di quelle nazioni, di quei governi con i social network e come fanno le giornaliste come te che si occupano di quei temi ad informarsi con i social network? Allora, il rapporto dei governi è assolutamente schizofrenico e meriterebbe fiumi di parole, perché soprattutto per quello che riguarda l'Iran l'atteggiamento dei governanti è assolutamente paradossale, per cui loro sono sui social network, spesso danno loro stessi le notizie, il caso di Rouhani che dopo aver parlato con Obama è stato lui stesso a raccontare di averci parlato e a diffondere i contenuti delle conversazioni. Per quanto riguarda invece la società iraniana, è molto interessante quello che accade attraverso i social network, perché è un modo per gli iraniani di far vedere al mondo un'altra faccia dell'Iran. E so se vi ricordate quando ci furono le manifestazioni del 2009, ci fu quel video che uscì con il volto di quella ragazza uccisa, Nedola Sultan, che era un volto rigato di lacrime di quella bellissima ragazza, che poi diventò il simbolo di quelle manifestazioni. Da quel momento in poi questi video, che spesso appunto vengono descritti come a volte sono attendibili, a volte non lo sono, eccetera, ha dimostrato come in realtà un'immagine può risultare più potente di qualsiasi reportage o qualunque anche testimonianza di giornalisti che vanno sul luogo, perché spesso si va in Iran e si racconta una realtà, è un po' come quei test, no, di Rorschach, quei test che fanno gli psicologi, per cui uno va lì, torna ogni giornalista e sembra che racconti una sua versione di quello che è l'Iran e di quello che lui ci vuole vedere a seconda delle sue opinioni, più o meno opinioni politiche, opinioni sul mondo, quello che si vorrebbe vedere. Invece la possibilità di avere queste testimonianze dirette, il fatto che degli iraniani mettano dei video per far vedere la complessità, no, del paese, quello è molto utile anche per noi, un po' perché è una specie di conferma che l'Iran non è così lugubre, monocromatico, che è diverso da come lo si voglia rappresentare, e dall'altro aiuta anche noi, perché è un paese in evoluzione, cioè anche i discorsi, le discussioni, i dibattiti che ci sono oggigiorno in Iran e che nascono spesso proprio attraverso i social network non c'erano 10 anni fa. Ti faccio questa domanda perché noi domani avremo Evgeny Morozov ed è la domanda forse di questo periodo. Consideri questi strumenti più un'opportunità nelle mani di chi si batte per una liberazione o più un rischio nelle mani di chi invece governa stati anche attraverso la repressione, l'oppressione, la censura? Quindi entrambe le cose, tant'è che in Iran questi mezzi che sono ufficialmente vietati, però poi ovviamente tutti li usano attraverso vari providers, attraverso vari sistemi, non vengono in realtà impediti del tutto, perché è molto più utile per loro raccogliere informazioni su quello che accade nella società iraniana, sui dibattiti che ci sono proprio delle task force che seguono appositamente quello che accade, spiano quello di cui si parla, spiano le foto, raccolgono informazioni, per cui sicuramente è difficile dare una risposta univoca, è un po' entrambe le cose. Tatiana, noi ti seguiremo su Twitter, invitiamo anche gli ascoltatori a farlo. L'account non è facilissimo, dobbiamo spiegarvelo per bene, chiocciola T Buturlin, scritto con la OU, quindi Buturlin, tutte e due scritte con la OU. Grazie Tatiana, buona serata. Grazie a voi. Grazie. Torneremo a collegarci con Tatiana, dai, torneremo, lo rifacciamo. E alcune di queste domande torneranno nella puntata di domenica. Cioè domani alle 15 torna RadioTube con una puntata molto interessante, molto impegnativa, molto particolare, quindi vi diamo appuntamento a domani. Io ringrazio anche Valeria Bernardi in regia. Ci ritroviamo domani alle 15. Ciao.